Prima edizione. 17 minuti, eccoci alle prime pagine dei quotidiani che la manovra ovviamente ce la raccontano un po' più seriamente di come ha fatto poco fa, l'avete sentito dal nostro zapping TV Fiorello. Fatto sta, cominciamo questa mattina dalla prima pagina del Sole 24 Ore, pensioni e casa, istruzioni per l'uso, un dossier di 30 pagine per capire tutte le novità, speciale manovra questa mattina con il Sole 24 Ore, vi ricordo, sconto alle imprese sui contributi IRAP per assumere giovani e donne, tra l'altro, mentre il testo, come dicevamo, il testo dei provvedimenti va al Quirinale. A fianco, sempre sulla prima pagina del Sole 24 Ore, ve l'abbiamo detto anche noi poco fa in GR24, ci sono anche la Germania, la Francia e tutti gli altri paesi dell'Eurozona osservati speciali ancora una volta di Standard & Poor's. Standard & Poor's minaccia di tagliare il rating di 15 paesi europei, così il Sole 24 Ore intesa Merkel-Sarkozy sulla riforma. C'è un appello al Premier Monti sulla prima pagina del Sole 24 Ore di quest'oggi. Caro Mario, l'Italia non molli su un governo dell'euro. La firma è quella di due ex Premier che hanno contato nelle tappe di avvicinamento all'euro, Giuliano Amato e Romano Prodi. La trovate sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Il Corriere della Sera, anche qui per tutti i quotidiani così, ovviamente l'apertura sulla manovra. Manovra, ecco quanto pagheremo, scrive il Corriere della Sera, Monti in Parlamento, l'Italia non fallirà e i costi della politica, i tagli che mancano, casta e dintorni, il commento di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella che di questo hanno fatto una battaglia. Taglio centrale del Corriere della Sera, anche qui intesa Merkel-Sarkozy, ma arriva lo schiaffo dell'agenzia di rating. La Repubblica, Monti in aula, l'Italia non fallirà, e anche qui euro, patto Merkel-Sarkozy, Berlino rischia la tripla A. Sulla Repubblica un paio di indicazioni sempre su questo: ogni nucleo pagherà almeno 600 euro all'anno, il conteggio che fa la Repubblica. Beffata sul fronte delle pensioni la classe 1952, quella per la quale ci sarà lo scalino immediato più alto, 5 anni di lavoro in più. Beffata la classe 1952, il conto che hanno fatto un po' tutti. E poi c'è un intervento anche sulla prima pagina della Repubblica, in questo caso di Angelo Scola, arcivescovo di Milano. La crisi morde, cambiate vita. Vorrei offrire indicazioni di carattere culturale necessarie all'allargamento della ragione economica e di quella politica. Se non vogliamo ricorrere al drastico ammonimento, fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia. Un ragionamento lungo e complesso, ve lo lascio alla lettura, questa pagina della Repubblica, l'intervento dell'arcivescovo di Milano che dice: c'è la crisi, dobbiamo cambiare sistema di vita. Il Messaggero, effetto manovra sui mercati, e anche qui Merkel-Sarkozy, modifiche ai trattati. Ecco i penalizzati, lo trovate un po' su tutti i quotidiani. In aula chi applaude, chi fa resistenza all'approfondimento sul Messaggero. Che succede nell'aula del Parlamento ai tempi del governo Monti? C'è anche Berlusconi seduto nel suo banco da deputato che ascolta e prende appunti. La Stampa, i mercati promuovono la manovra, il Premier, il paese non fallirà, il debito di Francia e Germania rischiano il declassamento. Anche qui, come sugli altri quotidiani, trovate molti approfondimenti. Uno riguarda la casta, non siamo noi, leggo dalla pagina della Stampa, e in rivolta ci sono le province che dicono: ci dimettiamo subito, non siamo noi la casta. Già vi anticipo che a prima edizione questa mattina ne parleremo tra poco proprio con un presidente di provincia per cercare di capire che ne pensano. La Stampa, che a centro pagina ha invece, voltando pagina anche per noi, un'immagine di Fiorello e Benigni, i due comici fianco a fianco, li abbiamo sentiti poco fa ieri sera al più grande spettacolo dopo il weekend, le dimissioni più belle in 150 anni, quelle di Berlusconi, così il titolo che sceglie la Stampa. Stessa immagine dei due comici fianco a fianco anche per il Corriere della Sera, e Benigni restò orfano di Berlusconi. l'artista toscano un po' spento, scrive Aldo Grasso: senza Berlusconi gli manca la pile per qualche battuta, così almeno il parere del critico sul Corriere della Sera. Restiamo sul Corriere della Sera perché vi faccio un paio di altre segnalazioni. Innanzitutto, venerdì e sabato, ve l'abbiamo detto anche noi poco fa, dalle 10 alle 18 Milano contro lo smog, auto ferme due giorni. Alla fine, dopo 22 giorni, i provvedimenti di emergenza arrivano, così stando al Corriere della Sera. Anche questo cercheremo di approfondire questa mattina con Prima Edizione per capirne un po' di più. Altra segnalazione invece di cronaca dal Corriere della Sera: squadra di giustizieri nel carcere di Roma picchiavano e umiliavano i detenuti, così la storia raccontata dal Corriere della Sera. La Repubblica invece si pone una domanda: profe alunni su Facebook, l'amicizia è da evitare? Nelle pagine interne c'è il dibattito aperto. Il Messaggero in taglio centrale ha un'altra immagine, una fotografia diversa, che è quella di Erika De Nardo, ricorderete, la ragazzina che a 14 anni uccise madre e fratellino a Novi Ligure. A oggi 27enne, al suo primo giorno di libertà dopo aver scontato la pena, Erika libera dopo 10 anni. La Stampa, anche qui l'immagine di Erika De Nardo: voglio una nuova vita, primo giorno di libertà, la ragazza guarda al suo futuro dopo aver preso le distanze dall'ex fidanzatino Omar, un altro amore ucciso dal crimine, così scrive La Stampa. La Stampa, dalla quale vi segnalo anche un'altra notizia: la battaglia del cioccolato, etichette sotto accusa. Ancora una volta sono battaglie che arrivano dall'Unione Europea, da Bruxelles. Vietato usare il termine puro, cioccolato puro. L'Europa minaccia sanzioni e Coldiretti dice danni al Made in Italy. Un'altra battaglia che si apre in Europa, come dicevo, è quella del cioccolato. Parliamo anche d'altro, perché questa settimana vi abbiamo raccontato che un po' nel silenzio per problemi di crisi si sta svolgendo però la conferenza del clima a Durban, conferenza dalla quale peraltro si attendono decisioni importanti, decisioni che probabilmente però non arriveranno. Ma allora noi cerchiamo invece di raccontarvi una storia di sostenibilità e per quanto riguarda un'altra crisi, che è quella appunto del clima. Ebbene, scuole autosufficienti a livello energetico e di risorse idriche, da costruire dove? A Gaza. Le ha progettate, sta per realizzarle in collaborazione con l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati, un architetto italiano, si chiama Mario Cucinella. Il progetto è stato presentato appunto alla conferenza sui cambiamenti climatici di Durban e lo ha intervistato la nostra Laura Bettini. L'intervista, vediamo un po' se riusciamo a mandarvela. 6:25, eccola pronta. L'esercizio più interessante di questo progetto è che siamo in un luogo dove non abbiamo due possibilità: o la facciamo green o la facciamo come viene, perché lì non c'è niente, no? Il valore di questo progetto è che alla fine con l'architettura diamo una risposta alla sostenibilità, ma quella vera, cioè lì non abbiamo altre possibilità. Ottimizziamo al massimo tutte le risorse naturali che ci sono, quindi dalla raccolta delle acque piovane, l'uso della temperatura del sottosuolo, il sistema della massa dell'edificio che aiuta a tenere l'edificio più fresco in estate, più caldo in inverno. Utilizziamo, ecco, come tecnologia l'unica cosa che mi sembra importante è quella proprio del sole, quindi inseriamo del fotovoltaico a film sottile in modo da poter produrre dell'energia elettrica quando manca. Senta, mi viene in mente che in molte situazioni tentativi di realizzazione a Gaza di edifici, di qualunque tipo di cosa, ci sono stati difficoltà per portare il materiale da fuori Gaza a Gaza. Può... Il materiale in parte locale, in parte ci sono due problemi. Uno, che essendo un'agenzia delle Nazioni Unite lavora nel rispetto della correttezza della fornitura dei materiali, quindi lei sa che a Gaza c'è un mercato, tra virgolette, illegale della materia che entra attraverso i tunnel, quindi diciamo il materiale che arriva dal mercato nero. Quindi ovviamente l'agenzia lavora sulla trasparenza e la correttezza, quindi una gran parte del materiale viene acquistato sia nella West Bank che anche in parte dalle forniture israeliane, perché il cemento per esempio viene da Israele, no? Certo. E il lavoro che stiamo cercando di fare era quello di trasportare all'interno il minimo delle materie facendo invece un lavoro più attento su, ad esempio, ridurre l'uso del cemento per usare più la terra. Quindi c'è tutta una tecnica abbastanza straordinaria, con grande manualità, di lavorare la terra, quindi mischiandola con poco cemento si stabilizza il mattone, ed è un materiale che alla fine, con 5% di cemento, facciamo un prodotto ad alte performance. Avete già dei tempi per la realizzazione? Il progetto è stato già finanziato dalla Islamic Development Bank. Ora io torno giù il 12 dicembre, perché il 13 abbiamo una visita, un sopralluogo per scegliere 2 o 3 siti per vedere, insomma, le condizioni sul terreno, e poi partiamo subito, perché in realtà non c'è niente che osta all'inizio di questo lavoro. Grazie Laura Bettini. Abbiamo ancora tempo questa mattina, qualche minuto in più, e allora guardiamo anche la Gazzetta dello Sport. Innanzitutto il mercato in apertura questa mattina: mercato verso la svolta, Milan-Tevez a un passo, vertice notturno a Milano, Galliani vede il manager dell'argentino, si tratta col City per il prezzo del prestito, così scrive la Gazzetta dello Sport, che ha anche un'intervista questa mattina a Blatter, il presidente della FIFA, che parla di temi d'attualità e progetti per il futuro. Sì alla tecnologia, sui gol dubbi e non mi ricandito. Una palla che entra di 70 centimetri non può più sfuggire, così dice Blatter. Il rompipallone di Gene Agnocchi, via Zanetti, dice: non siamo vecchi né stanchi, se vi azzardate a scrivere il contrario vi tiro la dentiera. Così Gene Agnocchi questa mattina sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Tra pochissimo, subito dopo la pausa, invece riepiloghiamo le notizie di oggi. Prima edizione. 6:33 minuti, ci aspetta Daniele Biacchetti. Italia in controluce. Buona mattina a tutti da Daniele Biacchetti, oggi è il 6 dicembre. Cosa sono i musei d'impresa? Come funzionano? Qual è la loro presenza nel territorio? Il reportage di Adriana Fracchia. Da 10 anni, in autunno, Musei Impresa, l'Associazione Italiana dei Musei Aziendali, organizza insieme a Confindustria la Settimana della Cultura d'Impresa. Decine di appuntamenti in tutta Italia, tra workshop, convegni, mostre e rassegne cinematografiche, appuntamenti aperti sia al pubblico che ai professionisti del marketing e della comunicazione, per raccontare la storia, il vissuto di un'azienda. Il bilancio di questa 10ª edizione della Settimana della Cultura d'Impresa di Alessandro Laterra, presidente della Commissione Cultura di Confindustria. Il bilancio è positivo, perché al di là delle nostre aspettative, questo che è un percorso che si costruisce insieme al sistema territoriale delle categorie, ha riscosso un ulteriore incremento di partecipazioni rispetto alle edizioni precedenti, il che sembrava poco attendibile come previsione, perché c'è una situazione di grande difficoltà in tutto il tessuto industriale. Invece la risposta è stata molto grande, il che dà l'idea che ci sia un desiderio di ritornare a una fiducia e un orgoglio e anche un investimento in cultura, anche in tempi difficili, perché, come si fa in azienda, i momenti di difficoltà e di attrito devono essere anche un'occasione per pensare e per progettare il futuro. Associate a Musei Impresa sono ora 52 aziende. Michele Perini, presidente dell'associazione Musei Impresa. Quando siamo partiti 10 anni fa era veramente un gruppo pionieristico di imprese che avevano visto nella creazione di un museo d'impresa un tema importante per quello che riguarda la cultura industriale del paese. Il museo d'impresa non sono solo una parte storica dell'azienda, il museo d'impresa è un elemento, se vogliamo, anche del marketing dell'azienda, ma serve anche a creare quella fidelizzazione verso il mondo delle maestranze della propria azienda, una specie di orgoglio che questo paese avrebbe bisogno che fosse un po' più diffuso, ecco. Anche a un aspetto educativo e formativo. L'importanza della cultura d'impresa, dunque, come una delle vie per favorire il rilancio del nostro paese. Ma quali sono gli auspici per il futuro? Ancora Alessandro Laterza. Io credo che un grande tema che potrebbe essere sviluppato è quello del merito, di cui si parla molto e forse ci dovremmo misurare in maniera più chiara su che cos'è il merito, come lo si misura e, al di là di quelle che sono delle valutazioni di ordine moralistico, a che cosa serve, quali sono le finalità per cui il merito va primato. Soprattutto, riprendendo uno slogan del manifesto della cultura di impresa che abbiamo stilato in un occasione del centenario di Confindustria, mi piacerebbe che il merito venisse visto come una virtù sociale e non come una virtù individuale, quindi non semplicemente una classifica dei bravi, ma un'attenzione di tutti per tutti per un miglioramento che sia ovviamente un miglioramento collettivo e non di singole posizioni. Il reportage di Adriana Fracchia è tutto, vi ha parlato Daniele Biachessi, questa è la prima edizione di Italia in Controluce. Torniamo oggi 13.30 a Radio 24. Alla fiera del Premier per due soldi un pochettino le tasse aumentò e venne Lici che si mangiò l'IRAP e si sommò all'IRPEF che gonfiò l'IVA che alzò i tributi. 6.37, ancora buona giornata anche da Anna Migliorati, prima edizione, ancora Benigni Fiorello show doppio ieri sera in TV, lo sentite Fiorello? Questa mattina però vi facciamo sentire ancora un po' di zapping con un assaggio anche di Roberto Benigni. C'è la crisi, noi lo sappiamo, è una cosa, i tagli, ho visto ieri, ho acceso la televisione, c'era la partita della Roma, erano in otto, dico, boh, Monti esagera, ha tagliato pure la Serie A, in tre in meno, l'ho contati, vi giuro, erano otto, dico, porco, ma i tagli, già, qui la Serie A diventa a calcetto praticamente, ho detto, ora esagera veramente, avete visto anche agli europei, sono state fatte le estrazioni, siamo usciti proprio con Irlanda e Spagna, manca la Grecia, che poi... Cioè, con Irlanda e Spagna, ma veramente quando si arriva a giocare gli europei siamo tutti rovinati, non si può neanche cominciare, l'arbitro già non trova la monetina, c'ha qualcuno un euro, non... rovinati come proprio il peggior girone ci poteva capitare, una cosa impressionante. Allora... No, vedo, sono cambiato tutte le alleanze, questa cosa del governo Monti, si capisce più niente, è passato la maggioranza all'opposizione, l'opposizione alla maggioranza, si sono fatti tutte nuove cose, l'unico che è rimasto uguale è sempre il PD che continua a sostenere il governo come sempre, ma gli altri sono un po', insomma, si sono molto cambiate tutte le situazioni, non si capisce più niente veramente. Allora Pierluigi, no, era amico mio, sì signora, allora si diceva questa crisi è terrificante ragazzi, bisogna stare attenti perché purtroppo ci sono i momenti belli e i momenti brutti, ma è nella natura delle cose, l'Ecclesiaste, la Bibbia, tutto, no? Ci sono le cose belle e ci sono le cose tremende che tu non sopporti in tutte le cose della vita, anche in televisione, ora c'è Fiorello, dopo c'è Vespa, bisogna prenderlo, non è che dici no non lo voglio, c'è, bisogna prenderlo, è proprio la cosa della vita, tra l'altro ho letto che Vespa stasera fa la puntata su di te sempre, no? Come fa sempre. Sicuro. E domani c'ha Monti. Dico, ma guarda, Monti è un destino, viene sempre dopo un comico, sempre, gli tocca sempre venire dopo. Cioè proprio sta scritto, è proprio gli tocca proprio. Guarda, sempre dopo un comico, guarda che la cosa. Vabbè. Così dunque l'assaggio, dicevo, di Roberto Benigni. Tra l'altro Bruno Vespa sarà ospite questa mattina a Radio 24 con 24 Mattino alle 8.20 e sentiremo anche cosa ci racconterà. Ma intanto, prima edizione, parliamo anche noi di tagli, lo facciamo in maniera un po' più seria e lo facciamo con il presidente della provincia di Milano, Guido Podestà, buongiorno. Buongiorno. Allora, voi siete tra i candidati ai tagli della manovra di Monti, ormai lo sappiamo, e potrebbero anche prospettarsi tagli più duri, visto quel che ha detto ieri in Parlamento Monti, invitando ad andare avanti verso il taglio alle province. Però io vorrei partire facendo un passo indietro, perché voi come provincia di Milano avete presentato uno studio dell'Università Bocconi, proprio di Mario Monti, che spiega quanto si risparmia con i tagli alle province, è giusto? L'abbiamo presentato come Unione delle Province Italiane, è uno studio, l'incarico è stato dato qualche mese fa e la Bocconi, quindi Mario Monti la conosce sicuramente bene, ha la capacità di capirne le fonti e i metodi di studio di questo elaborato, ma la Bocconi ci dice in questo studio che non vi è nessun risparmio nel tagliare le province, esattamente quello che aveva detto il centro studi del Senato, anzi siccome poi il personale delle province verrebbe allocato nelle regioni e contrattualmente vi sarebbe un aumento del 20%, costerebbe di più. La cosa che poi sorprende è che io gli do questi numeri perché così la gente capisce. Allora, secondo questo studio della Bocconi, il costa 193 euro l'anno circa la provincia, però dovendo mantenere ovviamente competenze e personale, una volta tagliata la provincia risparmieremmo 2 euro all'anno a cittadino. Dunque, è leggermente diverso, cioè il costo della cosiddetta politica, quindi consiglieri, assessori, presidente, i funzionari che seguono il consiglio, eccetera, hanno un costo medio di 2 euro all'anno. In Lombardia, ad esempio, 1 euro all'anno per ogni cittadino. Però rispetto a questo risparmio, siccome comunque le strade vanno mantenute, le scuole riscaldate, liberate dall'amianto, eccetera, eccetera, quindi le funzioni che svolge la provincia qualcuno le deve svolgere, passando il personale alle regioni lei avrebbe un incremento di costo non inferiore al 20%. E poi la cosa che sorprende è che in Italia esistono 4.500 enti intermedi, unioni di comuni, consorzi di comuni, parchi, comunità montane, agenzie, e su 4.500 enti, guarda caso, ne levano 100 che sono quelle che funzionano meglio. Allora, siete un po' arrabbiati, insomma. No, ma da cittadino nessuno vuol fare una difesa corporativa, in un momento come questo sarebbe veramente vergognoso il farlo, ma la serietà vorrebbe che prima uno analizzasse questo livello intermedio di governo e lo razionalizzassi in modo proprio, non arrivare già alle conclusioni senza avere considerato. Ecco, d'altra parte, da qualche parte bisognava cominciare. Siete sì, da cominciare sempre. Bene, non cominciare male, cominciare bene. Quindi, giusto, una parte della manovra ci sono delle positività in quanto proposto. In questo caso vi è qualcosa semplicemente di demagogico perché si dà fumo negli occhi al cittadino e non si fa il bene del paese. Poi vi sono anche tanti aspetti meno positivi nella manovra, insomma c'è buono, buono e meno buono. In questo caso veramente è, ma non diversamente mi lasci dire, da quanto aveva fatto il governo precedente, vi è un assunto che parte da questo preconcetto per cui eliminiamo le province e risparmiamo. No, eliminiamo le province e abbiamo un danno. E voi avete uno studio allora, della Bocconi, quello, lo presenterete quello che si può oggi. Fare è quello invece di dire le più piccole province si eliminino, si accorpino, laddove le regioni sono piccole non vale la pena di tenere le province, ma andare semplicemente a fare di tutte le erbe un fascio è veramente qualcosa di sbagliato, di sciocco, mi sembra di inutile e di dannoso per il paese. Tra una delle funzioni che lei si è preso come provincia di Milano c'è anche il tavolo dei sindaci sull'inquinamento. Ci siamo sentiti proprio a prima edizione, grosso modo una settimana fa, che il tavolo si apriva. Ora siamo a 22 giorni di sforamento a Milano. Milano ha annunciato il blocco del traffico venerdì e sabato con anche la chiusura delle scuole. Oggi lei ha convocato di nuovo il tavolo dei sindaci della provincia. Che succede? Inasprirete le misure antismog? Si troverà questo accordo? Dunque, noi avevamo già convocato per mercoledì il tavolo, proprio perché è un metodo che deve coinvolgere tutta la realtà del territorio. Milano non ha discontinuità rispetto alle città intorno, lei non si rende conto quando passa da Milano a Sesto San Giovanni o di Milano a Milano a Rozzano, è un continuo, no? E quindi è chiaro che l'aria che si respira da una parte è la stessa che si respira dall'altra. L'avevamo convocato per mercoledì, ieri sera il sindaco Pisapia mi ha chiesto di anticipare a oggi e quindi noi abbiamo aderito. Mi spiace che arriviamo con una decisione già presa da Milano unilateralmente. Allora, se Milano viene con una proposta e si discute, va benissimo. Se Milano viene con una soluzione da imporre agli altri, è sbagliato, anche perché in Milano abitano 1.300.000 abitanti, ma nella realtà della provincia vi sono ma altri. Ma lei oggi punterà a trovare l'accordo perché tutti blocchino? Io spero che molti aderiscano, lei capisce che poi è la volontà dei sindaci quella che si esprime, non è che la provincia possa obbligare qualcuno, può avere una funzione di convincimento e di coordinamento di quello che facciamo. Abbiamo invitato anche gli assessori regionali perché poi alcune competenze sono dei sindaci, altre della regione. Ma allora la provincia serve? La provincia serve, tant'è vero che il tavolo dei sindaci chi lo convoca, mi dica, no? È evidente che vi è una funzione proprio che è a tutela di tutti i soggetti, anche dei meno forti, ma che sono rappresentanze democratiche. Mi lasci fare un'ultima osservazione. La cosa così in qualche modo contraddittoria, tornando all'argomento di prima, è che un governo non eletto va a chiudere diciamo funzioni, istituzioni che sono state elette con il suffragio universale da parte dei cittadini. Questo è anche anticostituzionale, eh? E le regole vanno rispettate da tutti sempre. Grazie allora, il dibattito ovviamente non è chiuso. Grazie al presidente della provincia di Milano Guido Podestà, buona giornata. Prima edizione. 6:48 minuti, torniamo con un'altra decisione attesa oggi. Nuova udienza infatti per il processo per la morte di Chiara Poggi a Garlasco. Si vedrà se resterà o meno un altro delitto irrisolto dopo quello della morte di Meredith Kercher a Perugia. Io saluto Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, buongiorno Anna. Quella di oggi per il delitto di Garlasco sarà sicuramente una giornata importante, perché 4 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, la studentessa uccisa nella sua villetta di Garlasco, potrebbe arrivare la sentenza d'appello per l'unico imputato, l'allora fidanzato Alberto Stasi, già assolto in primo grado, oppure le indagini potrebbero essere riaperte. La stessa Procura Generale di Milano, infatti, insieme alla condanna a 30 anni in rito abbreviato per l'ex studente bocconiano, ha sollecitato nuovi accertamenti rispetto a quelli già fatti in primo grado, dibattimento terminato appunto con l'assoluzione di Stasi, perché le prove erano insufficienti, carenti o contraddittorie. I nuovi esami investigativi, secondo il sostituto procuratore generale Laura Barbaini, sarebbero necessari soprattutto sulle macchie di sangue trovate quella mattina del 13 agosto del 2007 nella villetta dei Poggi a Garlasco, tranquillo paesino della Lomellina. Una richiesta questa a cui si è opposta la difesa dell'imputato, che ha chiesto l'assoluzione per Alberto Stasi perché le prove non ci sono, ha scandito nell'arringa l'avvocato Angelo Giarda. Di sicuro oggi davanti alla seconda corte d'assise di Milano si ritroveranno a pochi metri di distanza i genitori di Chiara da una parte e dall'altra colui che era il suo boyfriend, accompagnato forse dalla sua nuova fidanzata. Di sicuro davanti ai giudici la mamma di Chiara porterà anche oggi, come in tutte le udienze dei processi, il suo dolore silenzioso ma anche la sua fiducia nella giustizia, che ha ripetuto sempre anche quando volle ai nostri microfoni mandare la sua solidarietà alla mamma di Meredith Kercher nel giorno in cui una sentenza scagionò i due imputati per il delitto della studentessa di Perugia. Guardi, solidarietà alla mamma di Meredith, senz'altro. Noi abbiamo sempre speranze di giustizia, questo senz'altro. Sono vicina alla mamma di Meredith, forse io le sono vicina più di, proprio perché ho vissuto e sto vivendo ancora una vicenda analoga. Vedremo come andrà a finire. Se quella di oggi dunque è una giornata importante nel processo di Garlasco, e questo indipendentemente da come andrà a finire, se cioè un verdetto sarà emesso o se invece le indagini saranno riaperte, è bene ricordare che comunque l'appello scandisce una tappa intermedia nei 3 gradi della giustizia. Ma l'importanza della giornata di oggi, come pure della grande attenzione che c'è intorno a questo caso, è provata anche dal fatto che nonostante il processo ad Alberto Stasi si sia svolto in rito abbreviato, quindi a porte chiuse, oggi la stampa sarà invece ammessa nell'aula per ascoltare la decisione della Corte. E allora Anna, poi più tardi vi racconteremo quale sarà stata questa decisione. E grazie allora Raffaella Calandra. E noi tra pochissimo, già subito, invece vi racconteremo ancora una volta le ultime notizie con GR24. Nel frattempo invece si conclude qui questa giornata, questa mattinata, prima mattinata con prima edizione. Peter Bescapè in regia, grazie come sempre in redazione a Viola Bottoni. Ci risentiamo tra pochissimo. Buona mattina da Anna Migliorati.